Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Le 10:08, buona domenica da Stefano Gallarini, comincia Il riposo del guerriero. L'argomento di oggi mi fa ridere solo a pronunciarlo, lo dico tra pochissimo. Intanto vi dico i numeri come sempre, gli sms al 349-238-6666, la pagina di Facebook si chiama La Fagina, ecco, neologismo, oggi ci sta. Quindi la pagina di Facebook con il nostro programma, Il riposo del guerriero, potete cercarlo per commentare quello che diremo. E il numero verde, perché anche oggi alle 11:30 c'è il mistero in 24 minuti, la possibilità di portarvi a casa fino a 1000 euro da spendere su libreriarizzoli.it, ammesso che riusciate a risolvere il mistero di questa settimana, e spero che finalmente ci riusciate, perché è un po' che nessuno porta a casa il premio. La risposta può essere, come sempre, o una notizia della settimana o un personaggio o qualcosa di particolarmente conosciuto. Il primo indizio di questa settimana, eccolo qui. Per prenotarvi si gioca alle 11:30 800 24 00 24. Oggi parliamo di pubblicità, la pubblicità che ci fa discutere, a volte ci piace, a volte non ci piace, che crea imbarazzo, ultimamente ne ha creata anche, ne parleremo anche di quella, la pubblicità anche controversa da un punto di vista sociale, e non soltanto quella che racconta, quella che non lo fa affatto, quella che diverte, quella che si ricorda e quella che invece si vuole dimenticare. Di questo parleremo tra pochissimo con molti ospiti nel riposo del guerriero. Quando la cosa mi va, se mi va, quando è il momento e dopo si vedrà. Una parola ancora. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro. Insomma, dovevo partire per forza con una canzone che ricordasse in qualche modo la pubblicità, e questa mi sembrava giusta perché parla di parole, appunto. Allora, intanto vi presento gli ospiti che sono con me oggi. Cominciamo da Michele Tosi. Ciao Michele, ben ritornato. No, grazie. Nella puntata che abbiamo fatto circa un anno fa sulla pubblicità, esatto, Eri ospite ancora, e siccome non c'è copywriter migliore al mondo ridirò le stesse cose. Esatto. Dovete vedere la bustina che si è portata Michele Tosi con delle chicche che oggi speriamo anche di leggere. E poi Giovanni Bedeschi. Ciao Giovanni, grazie. Ciao. Io non so come presentarti, perché sei, vabbè, un regista, sei art director, hai fatto talmente tante cose che non hai preso premi. Come posso presentarti? Cosa che posso dire? Perché ti hanno visto 1000 volte senza sapere che dietro c'eri tu, insomma. Hanno visto, tutti gli ascoltatori hanno visto qualcosa di tuo senza sapere. Perché la differenza è questa: un regista di un film tutti sanno più o meno chi è, capito? Invece un regista di uno spot, vabbè, tu ti occupi anche di cinematografia e non sa chi c'è dietro la macchina da presa. Come si fa? Come si supera questo gap, diciamo così? Ma lavorando sempre nell'ombra, a me ci piace. Cioè, non vogliamo essere. Anche perché quando parli con le persone che non ti conoscono, così, sai, succede, no? Di parlarsi tra persone, quando cominci a spiegare il tuo lavoro, vale anche per te, Michele, ovviamente, certo, a raccontarlo, e poi viene fuori quello che hai fatto, allora cominciano a dire: ah, ma tu sei quello? Sì, l'ho fatto io. E quindi lì c'è una sorpresa. Di mia nonna, sì, che diceva, mi disse: ma tu che lavori nella pubblicità, sì, perché non ti vedo mai a Carosello? Sono dietro le quinte, esatto. Scrivo. E c'è il gusto di lavorare dietro le quinte, credo, no? Sì, moltissimo, moltissimo, anche perché dietro alla produzione di uno spot c'è tantissimo lavoro, per cui c'è da divertirsi, c'è da soffrire tanto. Sì. Ecco, volevo dire che Giovanni Bedeschi è doppiato da Alberto Lupo. Sì. Stavo discutendo prima che ha la voce simile a quella di Alberto Lupo, che era quello che raccontava. Perché sto usando il diaframma per parlare, no? Sì. Lavorando con molti attori, sai bene questo. Riccardo Cioni, ciao, buona domenica. Ciao, buongiorno. Riccardo... Ciao Giovanni, vero? Ciao Riccardo. Grazie Riccardo, anche tu. Sapevo che vi conoscevate, perché subito Giovanni mi ha detto: ma c'è Riccardo Cioni? Dico sì, è lui, è l'amministratore delegato della Buccia, perché settimana prossima ci sarà la notte dei Publivori, siamo agli Arcimboldi a Milano. Riccardo, questa notte dei Publivori che cosa racconterà? Beh, ci interroghiamo in modo divertente se anche la pubblicità brutta, visto che la vedi tante volte, riesce a funzionare come quella bella che magari oggi si vede un po' meno. Ecco, ma chi è che decide che la pubblicità è bella o brutta? Scusa, è così per bella domanda. Infatti l'abbiamo chiamata questa edizione Buoni e Cattivi, un po' in modo Vasco Rossiano, nel senso che delle volte della pubblicità che ha un atteggiamento un po', un modo di trattare il tema con un po' di cattiveria, magari è veramente una buona pubblicità. Ora, senza fare esempi, Vigorsol per esempio, ecco. E in questa rassegna vedremo molti di questi, diciamo, spot controversi. Senti, quanto dura la rassegna? Nel senso che 18-19 novembre alle 21.30 agli Arcimboldi, la proiezione quanto tempo dura? Ma, è una versione un po' più corta delle altre, quindi saranno solo quasi 4 ore, perché normalmente facciamo tutta la notte, infatti lo senti dalla voce, no? Che siamo nottambuli. È un'edizione un po' condensed, perché ci sarà una parte dedicata agli spot 2010 che stranamente hanno avuto una produzione molto molto interessante, perché insomma la pubblicità in questi ultimi tempi aveva avuto dei momenti di difficoltà, invece il 2010 è stato come il vino, un anno ottimo. E poi ci sarà questa special su Buoni e Cattivi, e la terza parte è dedicata al Riddance, quell'edizione in cui con Radio 24 siamo stati insieme nella passata appunto edizione, e che sono solo spot da ridere. Ecco, l'ultima cosa che volevo chiederti, Riccardo, ci sono quanto torneremo indietro nel tempo per gli spot che vedremo? Fino a che anni? Come nostra abitudine, nella parte centrale, sino dall'inizio della rassegna, non dico proprio il 1878 con i primi spot dei fratelli Lumière, del sapone Lux, della pasta Pat Paul, però insomma passiamo anche dal 60, poi ci sono i nostri grandi classici come Super Timor, eccetera eccetera, che ogni anno entrano nella notte dei Publivori. Cioè non so se ci sarà ancora Omo, però mi ricordo perfettamente che ecco sì, che a un certo punto il pubblico, dopo averne visti 3 di fila, gridava Omo, perché quella era un detersivo, esatto, per lavare i panni. Grazie Riccardo Cioni, ciao. Niente, buona domenica, ci vediamo. Un saluto a tutti, grazie, ci vediamo al Teatro degli Arcimboldi la settimana prossima, 18-19 novembre, per la notte dei Publivori, il riposo del guerriero. Continuiamo a parlare di pubblicità nel riposo del guerriero con me, Michele Tosi e Giovanni Bedeschi, e c'è anche tra poco, c'è Francesca Dragotto, ciao, la nostra glottologa, buongiorno Francesca. Buona domenica. Allora Francesca, con te io comincerei subito, nel senso che partiamo dalle parole, ovvero dalla parola pubblicità, da cosa arriva, visto che tu insomma parti da lì per poi raccontare, hai fatto una tesi, però poche parole per oggi. Ecco, dovete sapere che Francesca ha preparato tipo 30 pagine di lavoro su quello che potremo raccontare oggi. Allora Francesca, da dove partiamo? Erano solo spunti, partiamo, andiamo bene. Partiamo dalla terminologia, nel significato che ci interessa, ovvero quello di propaganda. Pubblicità lo ritroviamo da almeno dalla prima metà del XVIII secolo, e però con un significato, con lo stesso significato lo ritroviamo da almeno altri 2 secoli. Scusate l'emozione. Allora, con il significato appunto di essere pubblico, di essere accessibile al pubblico, lo ritroviamo da almeno 2 secoli prima. Ecco, quindi una parola vecchissima in realtà, forse molto di più di quanto si potesse pensare. Reclama, scusami, invece da dove arriva, visto che così è una parola che a un certo punto, forse con l'epoca di Carosello, si è usata tantissimo in Italia? Sicuramente quello è stato il momento che l'ha resa celebre. Si tratta ovviamente di un francesismo, come suggerisce il suono stesso della parola, lo troviamo attestato anche in questo caso dalla prima metà del XVIII secolo, quindi non è un caso, è la stessa epoca di pubblicità. E in italiano, questa può essere una curiosità letteraria, la prima attestazione sembra essere in Ippolito Nievo, e quindi parliamo del 1858-1860 nelle Confessioni di un italiano. Il significato è chiaramente quello di propaganda di tipo commerciale. Allora a questo punto aggiungiamo il terzo anello della catena, che è appunto propaganda, da propagare, attestato prima, siamo intorno alla seconda metà del Settecento. Propaganda indica un'azione, ecco, un'azione volta ad influenzare l'opinione e il comportamento di un pubblico, per lo più in riferimento ad una ideologia, in riferimento alla politica, alla religione, per cui anche se in apparenza si tratta di tre parole dal significato sovrapponibile, l'atmosfera evocata da propaganda è un'atmosfera connotata un po' più negativamente, proprio perché ha a che fare con un ambito che in prima battuta è ideologico. Ecco, detto questo, io adesso chiedo a Michele Tosi, che facendo il copyright... Sono preparato. Ecco, quando un copyright scrive, sì, non pensa a tutti i meccanismi, gli vengono istintivi, immagino. Dopo un po' vengono istintivi, sicuramente, perché l'uso della parola... Cercavo una definizione, io mi sento un po' un surfista delle parole, nel senso che la pubblicità non si mette a insegnare come si parla, ma anzi sfrutta i gerghi, i modi, eccetera, cercando di sfruttare i ritmi delle frasi per poterne usare la ridondanza, la possibilità di essere più ripetuti di quello che lo fa già lo spot in onda, e entrare nel linguaggio comune. Questo è l'obiettivo ovviamente massimo, ma non si riesce a farlo, prepararlo a tavolino. Infatti non si riesce a avere un testo, dice adesso faccio un slogan o un headline che possa essere ripetuta e perfetta, perché non è così. La risposta delle persone, del pubblico, cambia tantissimo a seconda di dove è messa in onda, e come è attaccato a un prodotto, che può essere più o meno efficace. A volte funziona così, che si ricorda la pubblicità ma non il prodotto, che è una tragedia per il pubblicitario e per il cliente. Sì, questo tra l'altro mi viene in mente una cosa, o come nell'illusionismo anche, e il vero è come nell'illusionismo, quando tu ti ricordi l'effetto, la donna tagliata in due, ma non ti ricordi chi l'ha fatto, vuol dire che c'è qualcosa di sbagliato, perché non ricordi il protagonista. Chi l'ha prodotto. Esatto, vuol dire che l'effetto è più forte di te e quindi bisogna rivedere delle infatti cose. Noi ci teniamo conto sempre di un fatto che è l'attinenza, cioè uno può scrivere una frase fortissima, ma se non è attinente al prodotto, l'effetto pubblicitario è perso, per cui non funziona. Ecco, come si comporta invece la parte visuale, Giovanni, in questo senso? Anche lì ci si fa trasportare da cosa? Dall'istinto oppure c'è un ragionamento? Sicuramente la prima parte, cioè nel momento che prendi il briefing, la cosa è una parte molto razionale. Poi dopo bisogna lasciare spazio all'istinto, perché penso che un creativo, che sia copywriter, art director, regista, insomma che sia autore in pubblicità, è un creativo tutto tondo. Perciò va in giro, guarda le vetrine, guarda i film, guarda YouTube, guarda tutto ciò che c'è in giro, perciò deve essere maledettamente curioso, e a quel punto diventa istintivo nel momento che pensa. Perciò bisogna lasciare spazio sempre molto all'istinto, non a caso la prima idea è quella che funziona. Senti Francesca, io lascio la palla a te adesso, nel senso che tu hai nella tua raccolta per chiacchierare oggi hai citato molte pubblicità. Vuoi cominciare da una, quella che così in qualche modo ti ispira di più per qualche ragione, anche da un punto di vista linguistico? Ma le pubblicità che mi ispirano e che ispirano tutti quelli che in qualche modo si sentono affascinati dalla lingua sono tanti, perché è vero che chi scrive testi per la pubblicità lo fa senza rendersi conto delle tecniche linguistiche e soprattutto retoriche che mette in atto, ma questo perché è come se ce l'avesse nel sangue. C'è chi, come i comici e appunto i pubblicitari, anche senza sapere perché, riesce a selezionare nell'inventario di parole, di suoni che la lingua gli mette a disposizione disposizione delle soluzioni che funzionano, quindi poco importa se non sa cosa sia, che so, uno zeugma oppure un chiasmo, cose di cui magari parleremo tra poco esemplificandole con degli spot. Ti dico solo che Michele Tosi ha sbarrato gli occhi, cioè, ma cercando su Wikipedia. Io non ho mai scritto zeugma nella mia pubblicità. E invece lo so, no. immaginavo perché poi in realtà il linguista, il lavoro del linguista o del curioso linguista parte laddove finisce quello del copy, o comunque laddove finisce il lavoro del manipolatore di lingua, quindi in realtà si tratta semplicemente di mettere in evidenza dei meccanismi che, se si è bravi, vengono invece attuati senza sforzo, quindi chapeau al tuo ospite se non si rende conto di aver fatto cose che invece sicuramente ha fatto. Allora vediamo che cosa ha fatto Michele Tosi senza essersi reso conto di averlo fatto. E sì, subito. No, non è una gomma, non è una caramella, rutella è morbida da mordere, e ai gusti della frutta. Allora, questa è una vecchia pubblicità, non so di quanti anni fa, adesso l'aveva 25, di un po' di anni fa, e che tu hai inserito tra quelle che appunto utilizzano dei meccanismi. Quali meccanismi ha usato Michele Tosi quando ha scritto questa cosa? Ah beh, sono onorata di parlare con l'autore della fruttella. Non lo sapevano, lo dico agli ascoltatori, non sapevano niente di questa carambata. No, e io mi sono divertito molto quando avevo letto le pubblicità che Francesca aveva raccolto, e io ridevo perché dico, ecco, lo sapevo che almeno una l'avrebbe beccata, perché Michele ne ha scritte talmente tante, per cui vabbè, comunque, scusami, ti ho interrotta. Ma no, il messaggio, se proprio dobbiamo andare a vedere il contenuto, è povero, è scarno, ma proprio per questo risalta la bravura di chi l'ha organizzato. Tutto si regge su quella che viene chiamata in termine tecnico un omoteleudo, banalmente una rima un pochino più complessa. Esatto. Complimenti per l'omoteleudo, perché sembra scontato chiamare fruttella caramella, invece già a monte nella scelta del marchio fruttella c'è una logica che spinge proprio a scegliere una terminazione che evoca quella di caramella senza però essere caramella, cioè non è la caramella la frutta, è la fruttella. Se funziona, se il prodotto funziona e se jingle e slogan funzionano, allora nasce un prodotto nuovo che non è più la caramella, è la fruttella. Quindi poche parole, voglio dire, slogan etimologicamente significa grido di guerra, quindi quando lo slogan funziona è un grido di guerra a cui seguono orde di persone che avallano quel grido acquistando quel prodotto, quindi il gioco ha funzionato. Il resto cos'è? No, non è una gomma, non è una caramella. Allora definiamo una cosa dicendo quello che non è. Allora, dopo aver creato l'aspettativa, che cos'è? È fruttella, e soltanto alla fine arriva un qualcosa che non è la definizione, ma che connota l'elemento. È morbida da mordere. Questa è un'altra figura retorica, perché al contrario del caso fruttella caramella, in cui la parte simile era quella finale, in questo caso invece la parte simile è quella iniziale, mor, si può dire genericamente che si tratta di un'allitterazione, perché i suoni appunto si ripetono. Visto che si tratta di tre suoni in successione identici, parliamo anche di un omeoarco, quindi parole che iniziano con la stessa struttura fonetica e ritmica. C'è Michele Tosi che si sente completamente nudo, e adesso vabbè, c'è adesso il governo, siamo in radio. Esatto, il governo verrà ricostruito, però insomma prima c'era Giovanardi, e chissà se gli omoteleuti saranno accettati da Giovanardi, questo non lo so. Beh, a questo punto però, visto che hai citato l'attualità, sì, e dovremmo aprire una parentesi che poi richiudiamo subito, no, sull'uso dello slogan in politica, perché ci siamo abituati negli ultimi anni appunto a un uso inizialmente improprio dello slogan, un uso che però da certi punti di vista ci può far pensare alla pubblicità ingannevole, perché se pubblicizzo un detersivo lo provo, e se poi quanto espresso nella pubblicità non si verifica, posso cambiando, dire che, certo, esattamente, posso dire che si trattava di una falsità. Al limite posso anche ricorrere all'antitrust se il risultato era palesemente diverso rispetto a quello propagandato. Invece nel caso dello slogan in politica spesso non si può neanche esperire, andare a toccare con mano se quanto affermato, addirittura se sia stato mai fatto. Quindi questo è una declinazione nuova degli ultimi due decenni, che però ci riavvicina molto al tema della pubblicità. Continuiamo a parlare di pubblicità tra pochissimo. Vi ricordo la pagina di Facebook Il Riposo del Guerriero, ovviamente anche il numero per i vostri messaggi 349-238-6666. Il Riposo del Guerriero. Stiamo parlando di pubblicità con Francesca Dragotto, la nostra glottologa, Michele Tosi, in veste di copywriter ovviamente, Giovanni Bedeschi, io dico in veste di regista, certo, quindi ovviamente anche di art director. Esatto. Un messaggio su Facebook, Giovanni, dice... aspetta, tempi beati, quando la pubblicità, e parla di pubblicità del passato, quando le pubblicità erano estremamente pop e non come adesso molto sofisticate e a dir poco ridicole. Ecco, la sofisticata, cos'è che si intende per sofisticato? È una grande parola. Se sofisticato vuol dire essere, non lo so, non comunicativo, non lo so, non immediatamente recepibile, non so cosa voglio intendere. Negli anni '80 la pubblicità era iperpatinata, erano degli anni d'oro, degli anni dove si vendeva questo ottimismo, eccetera, perciò era tutto molto, molto carico, no? Di energia, di colori, di cose. Poi nel percorso, in tutte le crisi, no, che abbiamo avuto, siamo arrivati adesso ad avere un approccio molto realista, no? Voglio dire, se addirittura io che faccio il regista, cito questa cosa, i creativi, no, che sono i nostri committenti, ci dicono no, ma non metterla, non fare bella l'inquadratura, deve sembrare, non si deve sentire l'inquadratura, no? Perciò per dire come adesso si voglia raccontare senza filtri la realtà, cioè, come perciò se... forse il sofisticato è quello, se posso interpretarlo. Quindi inquadrato bene, girato bene. Girato bene, senso, sì. Eccetera. Poi è anche vero che se lo fai troppo realista lo vede il cliente e dice ma è brutta sta cosa. Poi sai, perché il bello comunque poi ha delle sue regole, no? Perciò penso che la pubblicità di adesso forse sia meno immediata rispetto, esatto, a quella di una volta, perciò meno pop, meno divertente, te la ricordi meno. Infatti se adesso tu pensi quali spot ti ricordi, insomma sono pochissimi. Ho appena citato, adesso parlando tra noi fuori onda, citavo una pubblicità che mi piace moltissimo ma non ricordavo assolutamente il prodotto, per cui io penso che sia anche un discorso che non, bisogna avere il coraggio di essere semplici, cioè devi essere vicino alla gente, perciò immediatamente capito, forte, anche se magari perdi un po' di stile, ma sei forte, la gente ti ricorda, secondo me è molto meglio. Pubblicità e pubblicità hanno avuto una crisi di identità, per cui hanno voluto fare tutti i costi della pubblicità intelligente, ecco. Ma così intelligente che non la capisci. E così avanti che la perdi di vista, per cui ci siamo persi a volte il significato stesso del motivo per cui vedo una pubblicità che serve a vendere. Certo. Francesca, io ti coinvolgo su una curiosità. Perché tutte le pubblicità dei profumi fanno... Questo è il testo, che non so cosa scrivono i copyright. Tutte così. Cioè, noi hai notato che è sempre così. E poi c'è il nome del prodotto. Per cui, perché sono tutte così? Perché si vende un'atmosfera e non si vende un prodotto. Bravissimo. Quindi quello che vendiamo è l'adesione ad un mondo immaginifico ricreato dalla pubblicità, pubblicità che spesso trae dal reale, ma che soprattutto negli ultimi anni invece spesso ricrea il reale, riuscendo a solleticare nell'attenzione, nell'animo dell'ascoltatore, dello spettatore, un'esigenza e una tensione che poi lo porta a voler essere come il protagonista. Banalmente il discorso è, per sentirti come il testimonial di turno, utilizza quello stesso prodotto e così farai parte di un gruppo elitario, che poi elitario non è, perché per definizione è pubblica. No, certo, solida per tutto, poi basta tirare fuori quei 100 euro diciamo per i 70 ml. Ma il fatto è, e qui lo chiedo a Michele, perché i testi sono così? Perché non si sa cosa dire. Sono tutti così. Sì, perché un grande pubblicitario diceva racconta sempre una storia, ma quando non hai una storia da raccontare la sussurri. E allora tutto diventa molto più interessante. Giovanni, adesso quindi adesso integro no. te, che forse è il compito per un profumo, il compito più arduo è la parte visuale, assolutamente, ovviamente. Quindi c'è un grande lavoro di regia, eccetera. Ma in quel caso, secondo me, proprio lo spot diventa il prodotto, no? Voglio dire. Ma non c'è il rischio che poi non ricordi il prodotto. Il vero, no, no, in quel caso proprio lo spot diventa il prodotto da comprare. Cioè, se ti piace, allora vai a comprare questo prodotto, perché sai, poi i profumi, voglio dire, sono una cosa molto. Ecco, tornando al discorso di prima, interessante, hai citato questa cosa dei profumi, perciò è sofisticato, sì. Ecco, quello è sofisticato, sono immagini iper sofisticate che adesso ricercate e vengono molto fuori, cioè si notano molto, perché proprio dall'altra parte c'è invece un appiattimento del linguaggio, no? Con questo linguaggio realista e comunque i colori tutti uguali, voglio dire, mentre una volta invece c'era un po' più ricerca, no? A livello dell'immagine, proprio a livello proprio del trattamento, del montaggio. Adesso i montaggi della pubblicità sono tutti, sembra un metronomo a quattro quarti, no? E non succede mai una sorpresa, cioè, sai esattamente cosa succede al tot secondo, come ormai nei film, in moltissimi film sai che entro l'undicesimo minuto deve esserci questo, entro alla mezz'ora deve accadere questo. Infatti è lì che bisogna, secondo me, recuperare un po' il coraggio di fare, convincere i nostri clienti, no? Perché molte volte poi si dice è colpa del cliente, ha provato infatti così. Ti stavo per fare questa domanda, invece, i clienti oggi influenzano? È colpa nostra. Se noi facciamo una cosa brutta, prima di tutto è colpa nostra, perché siamo noi che la facciamo, perciò dobbiamo convincere i nostri clienti che quella cosa è meglio. So che tanti non saranno d'accordo su questa, ma purtroppo, perché è vero, no? Ma Maria, forse dipende anche Non si dovrebbero presentare, certo. Non si dovrebbero presentare, non si dovrebbero accettare, certo. Insomma, io arrivo da una scuola, che è quella di Marco Mignani, dove non osavo presentare niente che non fosse quantomeno un po' intelligente, perché se presentavi una banalità ti cacciava proprio dall'ufficio e ti dicevano non farti vedere mai più, fino a che non ti venga un'idea. Per cui, comunque sia, il lavoro è veramente anche del copywriter e dell'art director, in questo senso. Ogni periodo, cioè ogni frase all'interno di una body copy deve avere un'idea, ogni periodo, cioè deve esserci qualcosa che ti sorprende periodo dopo periodo. La body copy è la parte, quella scritta di una pubblicità, quella più lunga, ecco, la headline e il titolo. Lì ci sono tanti aneddoti anche da raccontare su questo. Francesca, tu che hai fatto l'analisi della pubblicità e l'hai preparata anche per noi, e volevo chiederti, tra quelle di, diciamo, 20 anni fa, in questo ultimo ventennio, dagli anni 80, anzi quindi un po' di più, 30 anni, com'è cambiata? È cambiata sicuramente, ma nel linguaggio com'è cambiata? E allora a questo punto, se è cambiata nel linguaggio, visto che invece abbiamo toccato prima la parte visuale. Volevo inserirmi prima con una battuta a proposito della domanda dell'ascoltatore, no? Perché che sia sofisticata va bene, l'importante è che non diventi un sofisticume, perché spesso la commistione dei linguaggi, l'accumulazione, prima è stato utilizzato un termine chiave, la ridondanza. La ridondanza è un qualcosa che noi utilizziamo anche nel linguaggio ordinario comune, perché gran parte del messaggio che produciamo si perde nel passaggio tra l'emittente e il destinatario, quindi tendiamo a produrre messaggi ridondanti, così che una parte sufficiente ad essere compresi del messaggio possa con sicurezza essere pervenire all'ascoltatore, all'interlocutore. Quindi l'importante è che appunto l'artificio non sia fine a se stesso, perché a quel punto o si è molto bravi o altrimenti si finisce nel sofisticume, che, come suggerisce il suffisso stesso, è un termine spregiativo che tende al ragionamento cavilloso, perché tu prima parlavi dell'etimo, che significa sofisticare. La radice è quella appunto di sofistico, dal sofisma, ovvero un ragionamento che tende a far credere vero quello che vero non è, semplicemente basandosi sulla forza delle argomentazioni. Quindi dietro a molte pubblicità il sofisma c'è, e come. Ritornando poi invece alla tua domanda di adesso, nella pubblicità degli ultimi 20 anni assistiamo veramente a una differenziazione di modelli, di realizzazione di messaggi, perché da una parte il messaggio logoro, quello che sappiamo già come va a finire, quello che sembra non minimamente voluto, ha una sua funzione. La sua funzione è catturare un pubblico poco attento che vuole essere rassicurato. Quindi l'idea è ti do un qualcosa che già conosci, perché la novità potrebbe spaventarti, invece io voglio rassicurarti nei tuoi gusti, nel tuo modo di essere. Perché partiamo dal quando andiamo a criticare certe pubblicità banali, io sono la prima a farlo, soprattutto quando vedo l'uso di stereotipi che ormai sono completamente logori, abusati, finiscono addirittura per non avere più significato. È chiaro che lo faccio da un punto di vista che è un punto di vista, nel mio caso quello della linguista, nel caso degli altri ospiti quello della loro disciplina. Il nostro è un punto di vista, non voglio dire elitario nel senso connotativo, elitario però perché si avvale di un insieme di tecniche. Di una tecne, di un insieme di conoscenze che non sempre il pubblico invece ha a disposizione. Quindi quello che a noi può sembrare assolutamente privo di consistenza e da buttare magari riesce a cogliere maggiormente nel segno rispetto ad una pubblicità bellissima. Io ho fatto questo esperimento con una delle pubblicità che trovo in assoluto più belle, quella della Nissan Micra del 2003, quella diretta da David Lynch con Escoffier come fotografo. Credo che ve la ricorderete senz'altro, la Micra Bluette che si muoveva in una Parigi notturna algida in cui tutti gli elementi che si riuscivano a stagliare sullo sfondo erano dello stesso colore della macchina. Ad un certo punto nel cielo comparivano delle labbra, delle enormi sensuali, carnose labbra dello stesso colore della macchina che iniziavano a pronunciare delle parole. Ora, quelle parole erano parole ad hoc create per la campagna, sigile, semplogica, modtro, emotica. Parole macedonia, che intendo? Sigile, sicura, agile, semplogica, semplice, tecnologica. Allora, io ho trovato straordinario il fatto di creare dei neologismi fatti però di parole vecchie e soprattutto attinenti a caratteristiche che fino a quel momento erano considerate tra loro opposte per descrivere una macchina dandole una sua riconoscibilità non perché avesse un qualcosa di diverso, non c'era la strumentazione elettronica nuova, semplicemente quella macchina si differenziava perché era la somma di caratteristiche già esistenti che nella mente dell'ipotetico consumatore potevano per tradizione essere ritenute opposte l'una all'altra, semplice e tecnologica e così via. Moderno e retro. Sì. No, scusa, perché stavo riflettendo che Claudia ci scrive: tra le pubblicità più odiose sono quelle delle macchine. La loro stupidità e odiosità è spesso sproporzionale alla grandezza della macchina, ma lì è la difficoltà di creare qualcosa di nuovo, perché appunto poi adesso ci arriveremo. Ci sono aggiornamenti sul traffico, continuiamo a parlare di pubblicità, ci sono moltissime cose da dire, purtroppo il tempo scorre. Il riposo del guerriero. Andiamo a parlare di pubblicità. Allora, Giovanni, tu ti volevi riallacciare forse una cosa che ha detto Francesca prima, lo stavi accennando adesso, o mi sbaglio? Stai guardando con un'aria, cosa stai parlando? No, perché abbiamo detto quattro cose in 20 secondi. Allora, leggo un messaggio che dice: tutto questo strafigame anche nella pubblicità è ridicolo. No, ecco. Io sono d'accordo, sono io il primo, voglio dire, ho costruito la mia carriera di regista girando con bellissime donne, spot, con, devo dire, donne incredibilmente belle, però è anche vero che quel tipo di stereotipo che forse raccontava prima Francesca, devo dire, quel tipo di pubblicità, insomma, fa parte, insomma, no, di quel vecchiume, insomma, che va un po' cambiato, perciò viva l'ironia e viva... Ma che c'è ancora? C'è ancora assolutamente, perché è richiesta, però penso anche, visto i tempi che abbiamo vissuto ultimamente, no? Voglio dire, il proporre il modello, quel tipo di modello femminile, quel tipo, non si possa più fare. Cioè, ecco, parliamo della famiglia allora, perché un altro messaggio dice: le peggiori, curiosamente uno qui su Facebook dice le migliori, un SMS le peggiori, sono le pubblicità stile famiglia felice, no? Ecco, ce ne abbiamo tante. Com'è cambiata la famiglia in questi 30 anni, se è cambiata? Bella domanda. Non è cambiata per niente. Tantissimo, è cambiata tantissimo, però no, rimane sempre che la famiglia è uno dei più grandi valori che abbiamo, perciò dipende poi come la racconti e la documenti. Ecco, no? C'è la pubblicità di Ikea invece con due uomini, questa è non era in TV, ma sono cartelloni pubblicitari a Fissione. Due uomini di spalle che si tengono mano nella mano e Ikea dice: siamo aperti a tutte le famiglie. Giovanardi si è scatenato e allora Giovanardi non condivide, però è la realtà dei fatti, voglio dire, le famiglie sono cambiate, i componenti sono cambiati, sono più allargate, ci sono vari tipi di famiglie che conosciamo bene, perciò vanno rappresentate. Ecco, sono arrivate in pubblicità, a parte appunto qualcosa? A parte qualche cosa, no, perché chiaramente anche la famiglia del single, sicuramente sono state proposte, no? Sono state proposte tante volte, ma non sono arrivate. Io sono contento adesso, nell'ultima pubblicità Vodafone invece, sì? Non parlo di famiglia, che finalmente ho visto degli anziani protagonisti. Perché mi ricordo quanti belli PPM, giovani. Sempre tutti belli, giovani, tutti belli, ho capito, però siamo un paese di vecchi, rappresentiamolo, voglio dire, la maggioranza della popolazione. Anche per le dentiere erano giovani belli. Noi ne abbiamo 50, facciamo parte del boom demografico degli anni 60, perciò... Ma sai, fratelli Cohen dicono non è un paese per vecchi. Non è un paese, invece lo siamo, perciò va rappresentato. Invece c'è sempre questa, capito, questa, no, dobbiamo essere sempre così, però non rappresenti il paese reale. Perciò penso questa idea di rappresentare sempre qualcosa di più bello di quello che è in realtà, che è un po' il lavoro che ha fatto la pubblicità per sempre. Francesca, Michele ha tirato fuori una chicca in base alla pubblicità di cui hai parlato prima, questa capacità quindi di mettere insieme delle parole che dessero l'idea dell'auto. Lui ha trovato una pubblicità del 1980, cos'era? Non lo so, è il lancio della 1, quindi uh-huh. Il lancio della 1 che fece affidò a Forattini con dei disegni molto carini di questo elefantino sportivo e con delle ruotine che correva, e sotto ci sono una serie di aggettivazioni inventate ai tempi, che era è scattosa, è risparmiosa, e mi ha ricordato un po' questa cosa che avevi citato prima, non tanto di mettere insieme gli opposti creando nuovi neologismi, ma appunto di inventare parole nella pubblicità. Ma scattoso, risparmioso forse non esisteva prima nel linguaggio comune, o esisteva secondo te, Francesca? Con la pubblicità che la pubblicità ha ricreato, attingendo magari ad elementi che erano propri di determinati gerghi. Tutto quello che è in oso suscita tenerezza, perché oso è un suffisso ricco di connotazione. Quando dico connotazione mi riferisco al fatto che dice molto di più di quello che il suffisso in sé significa, quindi ci trasmette un'idea che è quella poi del punto di vista di chi lo utilizza. Allora lì innanzitutto c'era il fatto di utilizzare parecchi aggettivi in oso uno dietro l'altro, creando anche una curva melodica che rimanesse impressa nella mente dell'ascoltatore, no? È quasi una musica che in maniera passiva il cervello recepisce e memorizza associandola al brand, al marchio. Però in più c'era appunto questa idea dell'oso, non a caso in altre pubblicità troviamo teneroso e morbidoso è stato un tormentone è stato un tormentone a lungo, quindi sì, è stata una campagna ben riuscita, legata all'idea della velocità nella semplicità, perché il bozzetto in pubblicità, lo sapete meglio di me, non solo era stato già usato, ma nella linea della pubblicità all'Agostina, quindi sì, quella linea del carosello che prendeva forma man mano che Cavandoli la modificava con la propria matita, aveva raggiunto il massimo. Lì abbiamo un'ispirazione fumettistica che però viene associata a delle parole che scorrono ma con una loro regolarità, e questa regolarità è associata al termine uso. Certo che l'analisi del proprio lavoro è pazzesca, fa paura, sì, è vero. Allora, io una domanda per tutte e due, sia Michele sia Giovanni, è questa: è terribile l'imprenditore che si pubblicizza da solo, ecco, per un nostro ascoltatore. Allora, parliamo di questo. Anche quando te lo chiede. Anche quando te lo chiede. È imbarazzante. Perché vabbè, forse il capostipite, non lo so, è stato Rana, credo, no? Oppure c'è qualcosa di precedente? Parliamo, cioè, di Ciccarelli. Il dottor Ciccarelli. Giovanni Rana è uno dei pochi casi che secondo me ha funzionato molto bene. Esatto, infatti. Io ho avuto la fortuna di lavorarci, perché l'ho diretto in 14-15 spot, abbiamo fatto quello di Indovina chi viene a cena, no? Sì, ma lui è una persona così di natura, molto simpatico, racconta storie, e come lo metti sta, nel senso, è uno che fa star bene gli altri, divertente. Scusa, Lido, perché prese. Mio amico dice sempre: hai capito che furbo, ti vende ravioli poi viene a mangiarli a casa tua. Beh, però voglio dire, lui è uno dei pochi casi, poi ci sono altri che non citiamo ovviamente, che voglio dire sono abbastanza imbarazzanti. E come si fa? Deve cercare quando... risparmiare sul testimonial. No, beh, come si fa? Voglio dire, quando te lo chiedo molte volte bisogna anche dirgli guarda che non è il caso, è il caso di, voglio dire, studiare un altro tipo. Ecco, il copy come si comporta in questo senso? Anche è la difficoltà che ho provato anch'io in alcuni casi, anche molto più semplici, quella di far parlare titolari, ok, è quella di lasciar dire le cose come loro la pensano, non mettergli un copione sotto il naso perché diventa incredibile, cioè nel senso di sì, poco reale. Non riescono a studiarsi un copione rendendolo vero. È impossibile, ecco. non sono dei professionisti, certo. Giustamente, fanno gli imprenditori, quindi se loro hanno delle belle storie da raccontare, come ho incontrato ottimi personaggi hanno delle belle storie imprenditoriali, certo. Funziona benissimo, a loro modo, con dialetti, accenti, quello che è, pause, va tutto bene perché raccontano la loro storia. Se no il copywriter deve stare dietro l'angolo e fare un esempio del passato che fece molto discutere fu la dottoressa Tirone, che non era dottoressa per niente. Mi viene in mente, ecco, quando tu interpreti un ruolo che non hai facendo credere di averlo, infatti poi venne condannata con la pubblicità, un falso pubblicitario micidiale. E questo è interessante. I vostri commenti al 349-238-6666 o sulla pagina di Facebook. Dopo il GR ovviamente torniamo a parlare di pubblicità. Il riposo del guerriero. Le 11:06, ancora buona domenica. Stefano Gallarini, continua il riposo del guerriero. Stiamo parlando di pubblicità con Michele Tosi, copywriter, Giovanni Bedeschi, regista, e con Francesca Dragotto, la nostra glottologa. E con voi, i messaggi sono moltissimi e riprendo da uno dei messaggi per continuare la chiacchierata. Buongiorno, a volte per creare qualcosa di nuovo si ricorre a qualcosa di eternamente vecchio. Io sono fatta della stessa materia di cui sono fatti i sogni, anche se la citazione è dalla Tempesta e non da Romeo e Giulietta. Shakespeare. Copywriter, sì. Quante volte si pesca dagli altri? Spessissimo. Spessissimo, perché si riconducono dei modi, delle frasi famose per cercare di usare un trampolino che possa portarti più in alto di quello che potresti fare tu da solo. Il bello invece è cercare di usare cose nuove, meccanismi usati, ma stravolgendo le parole e mettendone di nuove. Si chiama creatività, fantasia, fantasia, esattamente. Però io trovo che questa di Shakespeare sia particolarmente azzeccata, perché non credo che sia andata in onda per un po' senza la firma Shakespeare. Eh sì. E poi è stata messa perché probabilmente l'ignoranza, oppure la pubblicità fa cultura, a volte riusciamo anche a spiegare queste cose. No? Ecco, Giovanni, invece, ti è mai sarà capitato sicuramente che qualche cliente ti chiedesse: la voglio come quel regista lì? Voglio le cose come quel che imponga un modo di girare. Il cinema montare. È grande ispirazione, sì. No? Specialmente ma per noi stessi registi della pubblicità. A me ad esempio piace ispirarmi sempre ai registi di cinema piuttosto che copiare un regista pubblicitario che fa quella cosa, anche perché il riferimento è sempre più alto, più nobile, perciò io la chiamo ispirazione, non che poi chiaramente non bisogna copiare la cosa, ma bisogna ispirarsi, e ispirarsi a quel tipo di film, di immagine, di emozione che ti ha lasciato, ti porta sicuramente, essendo riferimento alto, a fare una cosa di livello, no? Perciò capita spesso che sia creativo o il cliente che ti dà questo tipo di... Rispetto al passato i costi sono molto aumentati? I costi? Sì. I costi della pubblicità, con la crisi sono diminuiti e abbiamo imparato a fare con meno soldi, che questo vuol dire sviluppare di più sia nella creatività nello scrivere sia anche nel fare, perché abbiamo imparato, però devo dire anche la tecnologia ci ha aiutato ultimamente, però deve essere sicuramente stata una necessità, ma non deve essere la regola. Insomma, molte volte è bello fare una cosa e spendere anche i soldi e vedere davanti alla macchina presa una ricostruzione meravigliosa da riprendere, da fare, insomma. Ecco, Giovanni, tra l'altro tu che hai un gruppo, un team di registi, sì, che lavorano per te, con te, e volevo capire le competenze oggi, se ci sono i troverete giovani talenti, nel senso che le scuole anche semplicemente di persone che insegnano ad altre persone, come forse quelle che abbiamo avuto noi. Beh, rispetto ad anni fa ci sono molto più scuole, si può scegliere, ci sono anche bravi docenti, secondo me. e ci sono anche tanti talenti in questo paese di vecchi che abbiamo detto prima. Finalmente è il momento di far lavorare i giovani, perché io a mio modo, nella mia casa di produzione, ho proprio tutto per quello, un reparto chiedevo, dove tiro solo ragazzi 25 anni selezionati, ovviamente, che abbiano talento, ed è bellissimo lavorare con loro perché hanno un'energia, una passionalità che ti fa solo bene. E poi anche in qualche modo ti tiene comunque aggiornato sui linguaggi, i mondi, le cose, perciò dobbiamo ripartire assolutamente dalle nuove generazioni. Michele, per quanto riguarda la scrittura? Bah, no, io parto dai blog, io leggo molti blog, sì. E ormai ho rinunciato a scrivere imparate l'italiano, che i congiuntivi sono tutti sbagliati, da non hanno mai l'accento. Ma quello non importa. Ma non lo so, sai, però alla fine... Dipende dove scrivi e per chi scrivi, secondo me c'è una forma anche da seguire a seconda di... È quello che dice di anche rispetto, Francesca. Ecco. Un rispetto, esatto, del mezzo. Il mezzo porta a scrivere delle cose più o meno diverse a seconda della struttura. Però per quanto riguarda appunto fare bottega, tirar fuori l'artigianato di questo mestiere, far crescere i ragazzi eccetera, talenti ce ne sono, c'è pochissima possibilità di farli stare lì a far niente o dare il tempo loro di imparare, perché non ci sono i mezzi, ci sono gli spazi, purtroppo c'è sempre meno soldi, e questa cosa porta i vecchi a tenersi queste scrivanie per maggior tempo, purtroppo. Francesca, io sono convinto che la pubblicità sia una forma d'arte, ne sono sempre stato convinto. Sì, per me è una forma artistica, perché mette insieme delle cose e lo è. Tu in poco tempo devi raccontare molto. E poi questa è una mia opinione, potete anche non essere d'accordo, però io personalmente io la vedo così. E Francesca, secondo te ci insegna anche qualcosa l'ultima pubblicità degli ultimi anni, oppure non ci insegna più niente o ci fa disimparare addirittura dal punto di vista del linguaggio, ovviamente? Scompongo la domanda, eccola in là. Più sottodomande. Allora, è un'arte sì, nelle sue espressioni migliori, comunque è un'arte perché è una tecnica, e non ci dimentichiamo che la parola arte è un calco di una parola greca tecne, che è quella che poi è rimasta nell'italiano tecnica. C'è un po' un abuso del termine arte, che poi il risultato possa essere un prodotto che è anche artistico è indubbio, però in partenza è un insieme di tecniche volte alla realizzazione di un messaggio, di un prodotto. Fa imparare? Sì, può far imparare. Disimparare? In sé no, ma in realtà sì, perché se si punta sempre sulla riproposizione di stereotipi consumati, stereotipi banali, allora in qualche modo fa perdere il senso di capacità critica, anzi in qualche modo è un sistema per ubriacare le menti, spingendole, livellandole verso un livello basso. Ecco, adesso da livello basso mi è venuto in mente questo messaggio. Io credo che sia difficile, nel senso che il messaggio dice: trovo peggio tra le peggiori pubblicità quelle che devono parlare di incontinenza femminile. Allora io mi ricordo una Letizzetto che diceva: noi donne in pubblicità le abbiamo tutte, perché siamo incontinenti, abbiamo la nostra giornata. No. È vero, da raccontare questo, infatti, in pubblicità. È molto difficile, sono argomenti ancora tabù, più di altri. E una cosa che faceva sorridere anche noi ai tempi quando si lavorava, che non so, quando vendi un deodorante per le ascelle devi sempre far vedere dove devi spruzzartelo. Ah, per forza. Sì, per forza, perché è necessario, non si perché sa mai. La gente non lo sa, no? Esatto, non si sa mai dove uno possa spruzzarsi un deodorante per le ascelle. Così come argomenti veramente tipo le dentiere, pastiglie per pulire queste cose, certo. L'incontinenza. È bello il dribbling che si fa con le parole, in quel caso è veramente a volte comico, secondo me. Certe cose non si dicono, insomma. A proposito di giochi di parole, sentite questa pubblicità di molto tempo fa. Ma cosa fa con quell'arnese? Ostacola il traffico. Devo dipingere una parete grande, ci vuole il pennello grande. Non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello, cinghiale. Cinghiale, eccolo la grande qua. Marca. Allora, Francesca, cos'è stato usato qua con... Sì? Il chiasmo, questo è proprio l'esempio tipico di chiasmo. Se si vuole spiegare a un grande pubblico che tipo di figura retorica sia, allora la pubblicità del pennello cinghiale è quanto di meglio ci possa essere. Pennello grande, grande pennello, metteteli su un foglio, scriveteli in colonna, quindi pennello grande sulla prima riga, grande pennello sulla seconda, incrociate grande con grande, parete e pennello, verrà fuori una X. Chiasmo viene dalla lettera greca chi, che poi invece in italiano chiamiamo X, ma che si chiama chi, ed è una figura che nella pubblicità si usa soprattutto quando la pubblicità è destinata alla visualizzazione, perché l'occhio la coglie anche senza rendersene conto. Quindi è poco radiofonica, anche se poi vediamo che in questo caso funziona, perché conosciamo tutti la pubblicità del pennello cinghiale, che è diventato quasi un cult. Lo è. Però ecco, se ne fa un uso enorme. In questo caso il messaggio è brillante, perché grande è uno di quegli aggettivi che in italiano cambia significato a seconda che sia posto prima o dopo il sostantivo. Quindi pennello grande, parete grande si riferisce alla estensione, grande pennello invece è una qualità, un pennello di ottima fattura. Ecco, devo dire onestamente, ci ha lasciati i basiti. Ecco, c'era qui Giovanni che quando ha sentito questo detto No, c'è anche questo. Ecco. Vedi, la pubblicità racconta molto di più di quello che vogliamo veramente. Sapendola leggere, insegna. Raccontare noi. Il riposo del guerriero. Mentre gli ascoltatori stanno innamorando, e non soltanto, di Francesca Dragotto per le cose che ci sta facendo scoprire, allora c'è un messaggio che dice, un attimino, ne sono arrivati molti, quindi la pagina è andata avanti e così io, niente, ciao, eccolo qui, ho una nuova innovativa forma di marketing e comunicazione non convenzionale ad altissimo impatto mediatico internazionale e a bassissimi costi per il mercato mondiale, ma non so a chi proporla, non so cosa abbia inventato questo ascoltatore. Un cliente. E allora per questo c'è Fables al telefono. Ciao Fables, buongiorno. Ciao Stefano, buongiorno. Faremo proporre a te questa straordinaria idea di marketing non convenzionale e a basso costo. Fables, il nostro esperto di marketing non convenzionale, parliamo anche di questo tipo di pubblicità che voi ve ne siete occupati mai, Giovanni o Michele? No, in particolare stiamo cominciando adesso, diciamo, perché era l'occasione che fa l'uomo anticonvenzionale, non ne ho avuto ancora occasione, però è interessantissimo perché è comunque un mezzo da sfruttare. Ecco, forse anche un mezzo, forse però da lì sono arrivati molti input per la costruzione di commercial, cioè dal non convenzionale, il modo di girare. Assolutamente, sì, penso che abbia influito tantissimo, voglio dire, questo tipo di approccio, col modo proprio di raccontare e interpretare le immagini, assolutamente. Ti piace o non ti piace? Assolutamente, sì, a me piace tutto ciò che, come ho detto prima, mi piace guardare, sono curiosissimo, perciò è interessante andare a prendere di volta in volta da luoghi e territori diversi. Fabio, se ci fai un esempio che è particolarmente interessante di marketing non convenzionale, tu ne hai raccolti un po', però così volevo che tu ne citassi uno che in qualche modo ti avesse colpito per qualche ragione. Ma guarda, sono rimasto colpito da uno ultimamente, anche se poi non è strettamente legato alla promozione di un brand o di un prodotto. È un video che sta girando da un po' di tempo, che si raggiunge al link Take this lollipop, prendi questa lecca. Vediamo, c'è un video dove all'inizio ci viene chiesto di accedere con i nostri dati Facebook. Una volta consentito, parte questo video, siamo all'interno di uno scenario che sembra quasi appartenente ad un film horror, o comunque siamo in una location abbandonata, quasi sembra simile a Sole l'Enigmista, insomma qualcosa di simile. C'è questa telecamera che va avanti per questo corridoio molto lungo fino ad entrare in una stanza. Seduto ad una sedia c'è una persona di spalle vestita in una canottiera bianca, con di nuovo attorno questo scenario abbastanza quasi desolante, se vogliamo. Questa persona sta su un computer ed è proprio sulla nostra pagina Facebook, visto che precedentemente noi gli abbiamo dato l'accesso ai nostri dati. Che succede? Che questa persona inizia quasi ad innervosirsi, insomma sembra quasi che voglia vendicarsi nei nostri confronti, quasi fosse un serial killer. Quindi che cosa fa? A un certo punto si vede il video che prende quasi la localizzazione della nostra posizione, quindi questa serial killer, una volta digitato, non so, io sto a Bologna, digitato Bologna, esce subito dalla stanza e con la macchina si dirige quasi a venirci a prendere. che succede? Che la nostra foto a questo punto viene riproposta ad esempio sul cruscotto della sua macchina, quasi come se ci stesse cercando, come se fossimo in qualche modo la loro vittima. Il video finisce così, e che succede? Che inizialmente si pensava potesse essere la promozione di, appunto, di un film, di un nuovo film horror, invece è semplicemente un progetto di un ragazzo che in qualche modo ci vuole avvertire dai rischi di dare appunto i nostri dati con questa semplicità a Facebook, associandola appunto a quanto può essere facile dare una lecca appunto ai bambini. Ecco, quindi ricordiamo il sito, perché Take this lollipop, cioè prendi questo lecca tradotto in italiano, take this lollipop, che esatto, quindi andatelo a vedere perché è veramente geniale da tanti punti di vista. Io volevo che tu leggessi, Michele, hai portato un libro e c'era la quarta di copertina. La quarta di copertina, ecco, che secondo me è la quintessenza, non so se sto usando le parole giuste. Non so, la dragota ti dirà se... Ecco. No, ecco, ascoltate tutti gli ascoltatori, ma ascolta anche tu Francesco e poi dovrei fare l'analisi. Esatto, di questa... io la leggo e basta. Allora dice, un novizio chiese al priore, padre, posso fumare mentre prego? E venne severamente redarguito. Un secondo novizio chiese allo stesso priore, padre, posso pregare mentre fumo? E fu lodato per la sua devozione. Questo secondo me è il ribaltamento che la pubblicità e i copywriter fanno nei confronti delle parole e dei modi delle storie. È pazzesco come compiendo la stessa cosa, fumare ma raccontata in un modo diverso. Mentre prego o pregare mentre fumo, che è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. Eccola lì. Arrivederci, grazie. Come non è la stessa cosa? Ma no, non è la stessa cosa, il fatto stesso che in un caso hai utilizzato una forma verbale che è subordinata all'altra, pregare fumando, fumare pregando, a una delle due il cervello dà preminenza. Esatto, certamente. È tutto giocato su questo, vabbè, ma questo lo sapete, adesso mi presto, al gioco. Sì, però è esattamente quello che fa a volte la pubblicità, cioè ribaltare alcuni concetti o mettere in primo piano alcune parole per far sembrare o comunque far apparire in maniera diversa o sottolineare dei concetti migliori di altri. Ecco, allora per Giovanni, per chiudere dopo questa puntata, sì, purtroppo perché io di pubblicità continuerei a parlare, ma perché offre veramente degli spunti e ne avrebbe offerti molti di più, ma rifaremo puntate sulla pubblicità perché credo che sia particolarmente interessante, magari prendendo degli esempi e andandoli un po' a raccontare. E Giovanni, che cosa ti manca? Se c'è qualcosa del passato, dove vorresti di tornare, se vuoi tornare a qualcosa nel mondo della pubblicità? Non voglio tornare da nessuna parte, io farei un invito proprio a chi fa la pubblicità, insomma, di specialmente un invito a essere meno didascalici. Questo, noi molte volte siamo vittime dei clienti che vogliono, vedo una cosa devo dire e anche la musica deve dire quello. Invece il nostro lavoro è proprio che la parola, l'immagine, l'audio eccetera deve sempre portare un valore aggiunto. Dovrebbero arricchire il discorso. In questo momento siamo vittime della didascalia e degli speaker che parlano per 30 secondi, perciò anche se dobbiamo dire, cercare di dire meno ma meglio, no? Come dicono gli americani, less is more, è una grandissima regola. Io dico sempre, se quello che... No, perché pensavo anche nello spettacolo, quando il dire non aggiunge niente all'azione sul palco è inutile dire, allora agisci e stai muto, cioè questo è un buon concetto. Michele. Ma anch'io direi le stesse cose di Giovanni, perché tornano le rime. Mi piacerebbe tanto, io sono un grande fautore di questo sistema perché ne ho usate tante, ho avuto grandi maestri dove mi dicevano la rima fa prima, ed è vero. Però Dario l'ha insegnato a tutti, penso, sinceramente. No, sicuramente un po' più di leggerezza, meno didascalicità e semplicità. Semplicità, perché il lavoro nostro è quello di togliere parole, non di aggiungerle. Ce ne danno già tante, clienti, cose, i tempi stessi della pubblicità non sempre vanno riempiti di parole o per forza di tutte immagini utili alla vendita, ma per creare le atmosfere, raccontare cose che possano piacere al cliente e poi inserire il prodotto, come faceva Caroselle una volta. Francesca. Beh, In effetti c'è stata addirittura una pubblicità che ha usato il silenzio, penso a silenzio, e tutti continueranno a parlare agnesi, no? Anni in cui, fa, anni fa. Si vedeva nel non dire il massimo della caratteristica del prodotto che si andava a pubblicizzare. È stato bravo anche il cliente, credo, no? Che abbia, sì. Sì, però ecco, che quello spot abbia funzionato così, questo vale anche per altri spot, lo dimostra il fatto che quel modo di dire è andato ben oltre quella campagna pubblicitaria, è diventato un modo di dire comune, è come se io dico, se dicessi o così, subito dopo, oppumi, si pensa al sugo, oppure insomma potremmo andare avanti sciorinando a decine. E cosa mi piacerebbe? Mi piacerebbe vedere meno sudditanza nei confronti degli stereotipi, perché poi un altro tema di cui l'abbiamo toccato parlando della polemica dell'ex ministro Giovanardi con la pubblicità per l'apertura dell'IKEA di Catania. E lo stereotipo è un qualcosa che è talmente connaturato alla pubblicità che ci siamo ormai assuefatti alla sua esistenza. E però anche con lo stereotipo, anche volendo rispondere ad uno stereotipo, lo si può fare in maniera intelligente. E per cui ecco, mi unisco alle osservazioni degli altri. Sì. Per di più, no. La pubblicità deve essere ben fatta, perché non abbiamo bisogno di tante pubblicità, meglio farne meno ma con più intelligenza, ecco. Certo, questo poi vale un po' per tutto. Fabless, spazio per il guerriglia marketing, i clienti cominciano a capirlo o ancora siamo... Ma sì, iniziano a capirlo. L'unica cosa è che secondo me si inizia poco a capire comunque che dietro al guerriglia marketing ci possa e ci debba essere comunque uno studio approfondito, così come a partire dal mondo della pubblicità tradizionale, nel senso che a volte poi sembra che fare guerriglia marketing sia una cosa che si può fare veramente con due soldi e si possa magari partorire un'idea in pochissimo tempo, perché comunque sono idee fresche, così originali. Invece credo che dal punto di vista sia strategico che creativo anche la pubblicità non convenzionale debba seguire quelle che sono le metriche della pubblicità, diciamo, tradizionale. Quello che però succede è che mentre la pubblicità tradizionale, per ovviamente modesto parere, continua, se vogliamo, a far vedere spesso dei mondi un po' fittizi, no? Come se il mondo reale e quello pubblicitario fossero due mondi quasi opposti, perché da una parte vediamo comunque, non so, testimonial o personaggi particolarmente anche a volte poco vicini alla realtà, magari quello nella pubblicità tradizionale, e invece poi c'è dalla parte, secondo me, l'interesse fondamentale di riuscire invece a scoprire nuove forme di comunicazione, nel senso che forme di comunicazione anche, se vogliamo, più imprevedibili, qualcosa che anche lo spettatore non si aspetti, che vada a fluire nel momento in cui magari la sua consapevolezza nei confronti del messaggio pubblicitario è più bassa. E quindi uscire un po' dai canoni da questo punto di vista, secondo me, ecco, è fondamentale. I clienti comunque sia piano piano iniziano a conoscere, a capire anche quelle che possono essere le potenzialità, nel senso che fino a poco tempo fa si pensava che il guerriglia marketing poteva essere così quasi una moda o comunque qualcosa per far vedere che il brand era più fresco e giovane, e invece adesso comincia ad avere una considerazione magari maggiore, quindi inizia ad essere inserita anche a strategie di comunicazione a 360 gradi. Ecco, vedremo quale sarà il futuro della pubblicità. Intanto i 40 anni di pubblicità saranno raccontate a Arcimboldi la settimana prossima, nella notte dei Publivori. Grazie a Giovanni Bedeschi, grazie davvero. Bedeschifilm.com, il sito per chi volesse capire cosa hai fatto, il tuo gruppo che cosa fa, e esatto, rendersi conto, insomma, di come c'è molto lavoro dietro e anche lavoro per dare valore aggiunto al tuo mestiere, al vostro mestiere. Grazie ancora. Grazie a te. Michele Tosi, tosicampanini.com credo sia, o it. .com. Esatto, mi ricordo giusto. Blogguerriglia.it invece per quanto riguarda Fables, e la Francesca Dragotte a Tor Vergata all'università. Sì, però anche io ho un blog, una pagina sì. Facebook, non lo dico mai. No, e beh, dillo, scusami, dillo, so che ti tartassano anche di domande poi. Che... È vero, ed è bello rispondere, no? Perché è finita la puntata del Guerriero, in realtà c'è un guerriero 2.0 con le email e le domande via Facebook, per cui sì, se volete mi trovate su Facebook con nome e cognome, e poi ho un blog che raccoglie argomenti di contenuto linguistico che si chiama In viaggio per Tuttopoli, perché si tratta, insomma, tutte le forme in poli, che da Tangentopoli in poi l'italiano crea, per parlare degli scandali, insomma, ne parleremo magari un'altra volta. Quindi se volete seguire le cose che faccio potete usare quello, e vi ringrazio per questo spazio e vi saluto con un gioco di parole, o reclam o reclamo, perché poi è la stessa parola, non l'abbiamo ancora detto, però è la stessa parola. Grazie, ma faremo un'altra puntata sulla pubblicità, sicuramente. Grazie Francesca Dragotto, e grazie a Michele Tosi e a Giovanni Bedeschi. Grazie a voi. Grazie a voi. Davvero a voi. E adesso c'è il momento del nostro gastronauta. Il gastronauta. Davide, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, ciao. Eccomi qua. Hai sentito, oggi abbiamo parlato di pubblicità, ovviamente, e per quanto riguarda il cibo ce n'è troppa, fin troppa, e ce n'è comunque abbastanza. Di cosa ci parli oggi? Ma guarda, io sono qui in attesa di battere l'asta del tartufo. Ah, ecco, già, ecco, al castello di Grinzane, quindi ti posso parlare di tartufo che quest'anno scarseggia per le condizioni ambientali. Ma è cinese anche quello? Arriva? O no, perché ormai pare che di italiano non ce ne sia poi così tanto da alcune parti, che arrivi da altre nazioni, è vero? No, non è vero, arriva da altre regioni magari. Ci sono sempre nuove regioni italiane, o tutti più ci sono delle regioni di confine. Dalla Cina non arriva, è arrivato anni fa un tartufo, arrivava tartufo nero, che poi ci fu uno scandalo enorme perché era punturato per ottenere dei profumi maggiori con qualcosa che era veramente nocivo, quindi forse il tartufo giapponese o cinese ancora non arriva, magari fra qualche anno riusciranno a produrre magari in laboratorio anche quello, perché quello è naturale. Quindi per adesso ci stiamo salvando, grazie al cielo. Ci stiamo salvando, e ti dirò di più però, che le previsioni sono ben precise, non ce n'è molto ora, ma tutti dicono che arriverà in abbondanza a gennaio, perché la stagione appunto si è allungata in questa maniera, quindi se le condizioni ambientali rimarranno quelle odierne, sicuramente quelle di questo penultimo periodo, diciamo che c'è un allungamento della stagione, allora si troverà sempre di più tartufo made in Italy, insomma. Quindi, però guarda, ci sono tutte nuove aree che ogni anno escono, saltano fuori sul tartufo. Penso che ci sono 51 territori che vantano di avere il tartufo bianco, stiamo parlando di tartufo bianco in Italia. Tartufo nero invece sicuramente ce n'è una quantità maggiore, e quello non abbiamo bisogno di importarlo. Quindi è evidente che quando c'è questa carenza i prezzi salgono e diventa in certi casi proibitivo. Ecco, quest'anno come siamo messi col prezzo del tartufo rispetto all'anno scorso? Guarda, la forbice che io ho riscontrato ieri nella trasmissione era tra i 150 e i 350, quindi c'era questa forbice, diciamo, è molto ampia, perché ci sono delle aree che sono, come posso dire, hanno la griff, e ci sono aree invece che sono completamente sconosciute, che in molti casi alimentano le griff, e in altri casi si compra anche in territorio, e quindi è evidente che si paga molto, molto meno. Come ti dicevo, ad esempio il Molise è un territorio dove in tutta la regione si trova tartufo. Diciamo in Polesine è emerso che si trova tartufo, a Muzzana, che è un comune della provincia di Udine, si trova tartufo, quindi poi in Toscana ce ne sono diverse delle aree, in Emilia Romagna, Savigno c'è tartufo, insomma tartufo ce n'è abbastanza, sulla dorsale appenninica sicuramente dall'alto scendendo verso il basso c'è tartufo. Però è evidente che tutto dipende dalle condizioni ambientali, perché quest'anno diciamo che l'acqua che diciamo è venuta giù nell'ultimo mese in maniera, abbiamo visto anche con i grandi gravi disastri, sicuramente ha fatto marcire quel tartufo che stava emergendo dal terreno, da sotto il terreno. Ora si sta riasciugando con queste giornate, diciamo, dove non piove, e probabilmente, come dicevo, maturerà nei prossimi mesi, nel prossimo mese, e speriamo che arrivi, forse avremo un Natale col tartufo. Ecco, perché no, potrebbe essere un bel modo di festeggiare il Natale sicuramente. L'ultimissima battuta, brevissima, Davide, qual è, se lo sai già, il peso del tartufo più grande che si batterà all'asta oggi lì a Grinzane Cavour? Il peso del tartufo più grande è 750 grammi, però ti dirò che è un tartufo gemello, quindi ce n'è uno, diciamo una parte costa pesa 750 grammi, l'altra 500 grammi, quindi questo tartufo gemello, se fosse stato pesato e fosse rimasto attaccato, sarebbe stato 1,250 kg. Quello da 500 viene abbattuto a Hong Kong, e quello da 750 viene battuto qui a Grinzane Cavour al castello. Un po' di colla vinilica e se ne faceva uno solo, ma non va bene, no, per il tartufo, non ma si questo, può. Questo è un trucco, questo è un, ci sono dei trucchi, immaginavo. Molto furbi per fare questo, però in un'asta sarebbe stato troppo. Assolutamente, sì. Sarebbe stato scoperto. Grazie, grazie Davide, a domenica prossima. Alla prossima. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Il riposo del guerriero. Siamo pronti a iniziare con il mistero in 24 minuti, soltanto le scuse, nel senso che non siamo riusciti a parlare di videogiochi questa settimana, ma lo faremo sicuramente, recupereremo sicuramente la prossima settimana. E poi i messaggi vostri sono moltissimi, anche quelli scritti su Facebook, e ovviamente non ne abbiamo letti, però non siamo riusciti a dirli in onda, mi dispiace, ma sicuramente la pubblicità è un argomento interessante che andrebbe ridiscusso. Molte sono le cose da raccontare, retroscena e cosa c'è dietro un mondo che comunque, volenti o nolenti, vediamo tutti i giorni. Un mistero in 24 minuti. Pronti a vincere 1000 euro invece da spendere su libreriarizzoli.it, ammesso che riusciate a risolvere il mistero. Come sempre, si può trattare di un personaggio o qualcosa di conosciuto, oppure una delle notizie della settimana. Più indizi ascolterete, più il premio si abbasserà. Il numero verde per prenotarvi è come sempre 800 24 00 24, ed ecco il primo indizio. Certo che devo dire che il sole raccontato, cantato da Luciano Pavarotti, te lo senti proprio in fronte, così ampia la voce, ti senti questo calore. Alberto, dalla provincia di Pordenone, buongiorno. Ciao Alberto. Ciao. Eccoci qua. Allora, il sole fa pensare subito agli eventi di Genova, quindi l'alluvione, il sole che quella volta si sarebbe voluto che ci fosse piuttosto che avere l'alluvione, insomma, però potrebbe far pensare anche alla fine dell'emergenza, quindi il tempo che si è rimesso, insomma, quantomeno non è più così piovoso. Ecco, quindi comunque la risposta per te, tu dici, è l'alluvione che ha colpito, sì, Genova, ovviamente. Ok, sì, poi al di là, sì, sì, poi insomma, sì. L'indizio è legato al sole che è arrivato dopo, sì, però comunque l'evento è quello di cui tu vuoi parlare, giusto? D'accordo, capito. Bene. Va bene. Alberto, grazie. Come sempre, sai che al 24esimo minuto scopriremo, sì, la risposta. Se fosse, d'accordo, giusta, per te ci sono 1000 euro. Buona giornata, ciao. Anche te, ciao. Grazie, ciao. Laura da Roma, buongiorno. Buongiorno, ciao Stefano. Ciao Laura. Allora, un indizio l'abbiamo ascoltato, siamo ancora a 1000 euro, una risposta. La tua è una risposta o vuoi sentire un altro indizio? Ti volevo chiedere, l'indizio del sole è nel titolo o nel testo? Questo non te lo posso dire, come sempre non posso raccontarti. L'indizio. Gli indizi possono nascondersi nel titolo, nel concetto della canzone, cioè in cosa racconta la canzone, l'argomento, diciamo così, oppure addirittura anche nel chi la canta, eh. Allora chiedo il secondo indizio. Un mistero in 24 minuti. C'è Laura da Roma in questo momento che sta giocando e ha chiesto un secondo indizio. Napoleno sola mare. Napoleno adori mare. Napoleno una carta sporca. E nessuna sarà morta e ognuna aspetta sciorta. Devo dire, prima di niente straordinario, l'arrangiamento con questo mandolino a un certo punto entra nella seconda strofa, io lo trovo bellissimo, ma è una mia opinione, spero possa essere anche la vostra, volevo condividerla. Il secondo indizio, Laura, Napoli di Pino Daniele. Chi la canta questa canzone? Pino Daniele. Pino Daniele. Guarda, avevo un'idea, ma adesso sono davvero schiacciata. Dico la lodevole iniziativa del Sole 24 Ore, Si è trasformato in occasione della giornata per la Somalia in un palco di beneficenza. Ti ringrazio molto, Laura, per averlo ricordato. Buona domenica, ciao, grazie. Giorgio dalla provincia di Lucca. Eccomi, ciao, siamo a 500 euro, Giorgio. Allora, io vado? Non so, o vai con un altro indizio? Vado, sono ispirato. Vai benissimo, vai allora, Giorgio, ispirati. Io penso sia Giorgio Napolitano, il Presidente della Repubblica, per due motivi. Il primo, essendo di Napoli, quindi lo collego all'origine. Il secondo, non entro nel merito perché la domenica non si fa politica, però mi sembra che un po' di raggio di sole le abbia lanciati questi ultimi giorni, quindi io gioco questo e poi vedrò tra un po' di tempo se ci ho beccato o meno. Anche noi lo vedremo, grazie Giorgio, buona domenica, ciao. Tra poco infatti la risposta arriverà. Carlo dalla provincia di Perugia. Sì, buongiorno. Ciao, buongiorno Carlo. Abbiamo solo due indizi ascoltato fino adesso, 500 euro. Che cosa vuoi fare, una risposta o un altro indizio, ma scenderemo a 300? Rispondo, vado. Vai, anche tu. All'origine del nostro presidente, Giorgio Napolitano. E l'abbiamo già detto, Napolitano, però il personaggio. Mancano 5 minuti alla soluzione del mistero. Eccolo là. Stavo all'ascolto, ma sentivo malissimo e non ho sentito. Giorgio, prima di te, ha proprio detto Napolitano. Ma la voce saltava, andava e veniva. E quindi dovresti dare una risposta alternativa. Mi ritiro. Ti ritiri, Carlo. Va bene, lo facciamo rigiocare, Carlo, magari. Grazie, ciao. Prego, buongiorno. Buongiorno a te, Antonio dalla provincia di Avellino. Antonio. Pronto? Antonio, non mi senti? Sì. Eccolo qua, no, c'è. Allora, Antonio, tocca a te. Ma non è Avellino. Vabbè, a me così ha scritto, Antonio, non so cosa dirti. È Molfetta, Bari. Allora, Antonio della provincia di Bari, va bene così, ok. Dimmi, Antonio. Antonio, comunque sei. Allora, io penso che si riferisca la canzone Solo Mio, di Pavarotti. Sì. All'ascito di Berlusconi, all'inizio di Monti. Grazie Antonio. D'accordo, grazie, ciao. Antonio. Dimissioni, quindi in poche parole, sono quello che sta succedendo. E Ugo da Padova, buona domenica, Ugo, ciao. Sì, buongiorno, ciao. Ciao Ugo, due indizi ascoltati, siamo ancora a 500 euro, ma ve lo dico, tanto mancano 4 minuti circa alla fine di tutto e voglio anche dirvi che la risposta giusta non è arrivata. Ugo, me la vuoi dare tu la risposta giusta? Spero di sì. Allora, anch'io ho pensato subito a qualcosa collegato a Napoli con il primo indizio. Ho scartato i fatti politici perché erano un po' troppo scontati e mi sono preso una notizia un po' più spicciola, quella di curiosità, sempre legata a Napoli, ovvero la ressa che c'è stata nei tabaccai, tabaccai ricevitorie tipo Lotto per giocare alle ore 11 del giorno 11 secondi dell'11-11 2011. Certo, alle 11:11 poi, certo. Questa è la notizia che non, è venuta. Mi sembra che non sia venuta né la fine del mondo e né che qualcuno abbia vinto, ma comunque quello è un altro discorso. Grazie Ugo, ciao. Grazie a voi. Ciao Ugo, grazie. Valerio da Napoli, ciao Valerio, buongiorno. Buongiorno. Che bella canzone che ti ho scelto, fatta apposta per te. È proprio adatta. Senti, allora, io avevo pensato a Napolitano. Ma l'hanno già detto, quindi... Tu hai detto che Napolitano, la risposta non è ancora arrivata. No. Io però resto sullo stesso argomento. La crisi, le dimissioni di Berlusconi. Hanno già detto anche questo. Hanno già detto anche questo. Sì. Allora la vedo proprio difficile. Difficile. Io pensavo che fosse facilissimo sta settimana, giuro. Sì. Io ho detto qui si portano a casa. E allora dammi un altro indizio. Allora chiedo un altro indizio. E non c'è tempo per ascoltarlo? Non lo so. Non c'è tempo. Allora veramente. No. Cioè io potrei anche fartelo. No, te lo faccio ascoltare. Ascoltiamo un minuto, 30 secondi. Vai. Che qualunque cosa accada, so a memoria dove andrà. Già conosco i sassi del cammino e il dolcissimo declino. Sola straordinario pezzo di Jobim, in italiano però cantato da Mina, e si intitola Ritratto in bianco e nero. Ritratto in bianco e nero. Valerio. Sì, ci sono. 30 secondi. No, non ce la faccio. Ciao Valerio, grazie. Ciao. Benvenuto da Foggia. Benvenuto. Sì, buongiorno a tutti. Comunque la risposta è Rinascita. No, ciao, benvenuto, mi dispiace. Fiorella da Ancona, buongiorno. Ciao. Ciao Fiorella. Io devo dirti che per me assolutamente sono le dimissioni di Berlusconi, le canzoni si riferiscono al fatto che Berlusconi canta con Apicella e quindi io non so dare altro, dimissioni di Berlusconi. Grazie Fiorella, niente, ciao. Anche scaduto il tempo, ma che rabbia, io non lo so. Guardate, credetemi, ero convinto di darvi 1.000 euro oggi, perché comunque l'indizio, essendo andato in onda già da mercoledì, da giovedì, non poteva essere una notizia di ieri, fondamentalmente certa di ieri. E l'amo oggi condannato dal tribunale di Napoli, per questo la seconda canzone, Napolè o Sole Mio, Luciano Pavarotti, Lucianone, perché Moggi è soprannominato come Pavarotti, Lucianone, e poi Ritratto in bianco e nero per la questione della Juventus, per cui mi sembrava veramente facile, niente da fare neanche stavolta, che rabbia. Grazie come sempre alla redazione, a Giorgio De Luca, all'assistenza di Stefania Tagliaferri, a Paolo Corleoni che è stato in regia, e ovviamente grazie anche a voi. Ci sentiamo domenica prossima puntuali alle 10 con Il Riposo del Guerriero, parleremo di animazione e di fumetti. Buona settimana a tutti da Stefano Gallarini. Il Riposo del Guerriero. Ah!